Greetings from the bylands of Ontario East. Behold, Chuck D with DMC and Wild Wild Women. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm at my girlfriend in a hotel. She looks sad, so I asked, are you okay? She said, sit your ass down, I wanna tell you some. New day, same bullshit. Where you coming from? Your eyes looking like the balls popping. Calm yourself, bro, I was just walking. We jump when they say crisscross your legs. Calling karma a bitch, cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, glowing. I looked at the mirror, caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and... 19.02, sta per iniziare sulle 87.9 una nuova puntata di Likewise. Okay, with my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. Donna Sonica e Pinklo per un'oretta di musica insieme. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. I'm not subsay, yeah. But you subsay, yeah. Ungar dip, way, yeah. Kam danda na hi hai. Wanna namasera. Bandiya hai khas. Wala gampar. Baad bani sa. Sangathan mein hamari itni shakti hai. MCD e le Wild Wild Women, la nostra sigla di quest'anno. Che ci piace sempre di più, diciamo. Ci piace, certo, diciamo. Come sempre. Tra l'altro, insomma, vi abbiamo un po' accennato chi sono le Wild Wild Women, questo collettivo indiano di musiciste, skaters, break dancers, che altro whatever fanno? Riders, una volta si diceva graffitare, ma insomma, riders va bene. Sì. Insomma, tutto quello che ruota intorno al mondo, alla cultura hip hop, appunto visto attraverso gli occhi di un collettivo giovanissimo indiano che ci piace un sacco. Andate a vedere un po' dei loro video. Ti sei persa un pezzo del mix? Ti sei persa? Andate a vedere il loro video. Come andrò a vedere i loro video che si trovano in rete, che sono veramente fantastiche. Il loro modo di interpretare la cultura hip hop, di appropriarsene e di trasformarla in una chiave bellissima, è veramente qualcosa di super energetico, secondo me. Assolutamente sì, ben trovata a tutte e tutti per questa nuova puntata di Likewise. Vi ricordo che ci potete chiamare in diretta fino alle 20 allo 0649 17 50, che ci potete scrivere alla nostra casella mail likewise@andarossa.info, che ci potete seguire sul canale Telegram likewise-trattino-basso-trx. Oppure passare qui oppure a farci passare, un fischio da sotto la finestra, se volete. Puntata numero 94, a metà della nostra puntata ci sarà la seconda parte del contributo di Olivia, compagna di concerti, di ascolti e di discussioni musicali, che ci spiegherà Chapel Roan tutto quello che pensavi di non dover sapere e invece dovevi. Sottotitolo: l'ascesa di una pop star queer di cui evidentemente avevamo bisogno. Cominciamo subito? Cominciamo subito. Loro sono affezionatissime qui da queste parti. Come Girl 8, Come Up Police. Come Girl 8, Come Police, che non ha niente a che fare con il pezzo famosissimo dei Radiohead, per fortuna. Ma ha molto a che fare con loro, nel senso che se ne sono fregate altamente di mettere il titolo di una delle canzoni forse più conosciute degli ultimi 20 anni. Esatto. Del mondo del rock, quantomeno. Esatto. Allora, che gli frega allora? Che gli frega allora? The Eighth Coming è il finalmente il debutto, l'EP di debutto di questa band pazzarella di Manhattan per la 4AD, uscito lo scorso 4 ottobre. Queste pazzarelle che praticamente l'anno scorso l'hanno passato in giro per il mondo a suonare. Abbiamo avuto la fortuna anche noi di guardarle, di vederle dal vivo, più guardarle che sentirle, perché il posto dove le abbiamo sentite faceva veramente un po', si faceva un po' fatica ad ascoltare insomma quello che fanno live, che invece è tanta roba. Sono molto molto brave, molto divertenti. Poi in particolare questo album è registrato dal vivo, tutto in analogico, tutto quello che sentite è diciamo farina, è successo a un certo punto dentro lo studio. Molto carino. Infatti molto, sentivo molto una voce, secondo me c'era tipo qualcuno una che parlava ai fatti sua no? può essere può benissimo essere. All'inizio pensavo che era qualcos'altro che era nelle cuffie, ma ora che sto pensando invece probabilmente forse ero io che ti parlavo che eri tu che mi parlavi. Comunque, secondo la loro tradizione, la band si è incontrata 8000 anni fa in una chat sessuale in un altro metaverso, dicono loro. E certo, i loro precedenti EP, quindi c'è tutta una logica, questo anche per invitarvi ad ascoltare anche le loro altre produzioni, hanno raccontato la storia della loro nascita con Come Girl 8, sì, della loro morte, Rest in Peace Come Girl 8, e dell'aldilà, Fantasia Farm. Sì. E questo diciamo era il trittico, e loro la band è descritta come un sogno utopico e caotico di Greta Thunberg. L'ottavo coming è la storia della loro risurrezione. Esatto, che ti devo, va, cioè, no, non c'è altro da aggiungere, esatto, dovete no, solo andare a sentirle, a guardarle anche a godervi insomma lo spettacolo, il divertimento, l'energia che sprigionano sul palco, perché è veramente molto molto bello. Scappiamo, via. E lo sono Stereotype, Tehran. Stereotype Tehran, tratto dall'EP Code, uscito il 3 maggio scorso per la 30M Records. Abbiamo scelto, ci abbiamo messo un po' a, diciamo, a elaborare questo EP, perché ce l'avevamo in lista da un po', sì, un po'. Poi ci stava, non ci stava, e in effetti alla fine abbiamo deciso di scegliere il pezzo più catartico e meno ossessivo, no, dell'EP in qualche modo, anche se appunto questo, diciamo, questo, come si dice, questa cupezza, questa pesantezza, che non è una cosa negativa, ma è proprio una sonorità, la parte dark della voce di Meshkat e anche tutte le sonorità intorno hanno a che fare con quella che è la loro storia personale, con quella che è, diciamo, che quelli che sono i loro testi legati al paese da dove vengono, al tipo di vita che hanno fatto e come sono arrivati alla musica con difficoltà, che magari ci vuoi raccontare tu, perché non ti voglio rubare. No. Xin and Meshkat, vai. Che vengono appunto da Teheran, come il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Hanno iniziato, si sono incontrate, diciamo, nell'underground musicale della città e hanno iniziato a produrre musica durante la pandemia del Covid. E raccontano infatti che non è stato facile niente mai, in qualche modo è una storia, la loro storia musicale è una storia di sfide e chiaramente, come potete ben immaginare, non sono rimaste, non sono in questo momento a Teheran, non so se fanno su e giù in realtà, perché questo non l'ho trovato. Si muovono un po', però sono state anche in giro per suonare negli ultimi tempi, sono state poi a Parigi, sono state a Istanbul, sono un po' in movimento, ma comunque non hanno perso la connessione con il loro paese. E proprio su quella canzone che abbiamo ascoltato, loro dicono che appunto è una ode alle donne in Iran, che vogliono essere viste, ascoltate, e in qualche modo usano un termine che mi è sembrato interessante, necessario, cioè importanti, necessarie, come una cosa che c'è e ha un certo peso comunque nella collettività e nella comunità. Loro raccontano, Xin racconta che la canzone è nata quando avevano molta nostalgia di casa e nel paesaggio sonoro hanno messo dentro tutto quello che gli ricorda, insomma, che ricordano dell'Iran, quello che amano e allo stesso tempo quello che odiano, perché dicono che quella è una linea molto sottile. Anche se vuoi fare solo le cose tue senza prestare, insomma, attenzione alla politica, racconta Meshkat, sei comunque, la tua esistenza stessa è una specie di provocazione in quel paese, lo sappiamo un po' come vanno le cose. Lo stesso nome della band che si sono date, Stereotype, è proprio nato dalla loro autopercezione di artiste donne e appunto vogliamo solo essere una band. E tutto questo appunto poi si trova nella loro musica, che è vero è cupa, però anche, come raccontano, una musica di nostalgia, di non definito, perché appunto i confini sono un po' sottili tra quello che si ama, quello che si odia, quando provengono, insomma, dalla stessa fonte, in qualche modo dal paese di origine, che in qualche modo ti espelle e ti butta fuori, anche se tu non vorresti. E la musica è anche occasione, appunto, come dicevi, di spostarsi. Xin, che ha anche prodotto il disco, non potendo suonare in pubblico la chitarra, appunto per le proibizioni nel suo paese, ha dovuto studiarla da autodidatta, quindi si esercitava a casa, finché a 18 anni non ha formato, sempre appunto nell'underground di cui parlavi prima, una indie rock band di donne che si chiama The Finches, si chiamava The Finches, e poi appunto successivamente incontra Meshkat e quindi trovano quest'altra formula che magari è più, diciamo, in qualche modo permette loro, come raccontavi, di descrivere meglio quello che è il loro percorso attuale in questo momento storico della loro vita. Se vi siete incuriositi, abbiamo sentito una telefonata, non sappiamo se era per noi o solo per chiederci qualcosa. C'è il loro EP di debutto, si chiama Foil, c'è questo EP che è uscito a maggio di quest'anno che si chiama Code, loro si chiamano Stereotype, andatevele a cercare. Terzo pezzo di questa scaletta della 94esima puntata della Equize. Dobbiamo, lei si chiama, tipo a Sanremo. Lei si chiama Heavy Sage. Jude abbiamo scelto. Yes, Jude. Thank you. E questa era la voce di Abby Sage, giù del pezzo che abbiamo scelto dall'album The Rot, uscito per la Network, che nonostante il nome sembri tedesco, è in realtà una etichetta canadese. Credo lo scorso marzo sia uscito album, che è anche questo girato un sacco nelle nostre playlist. Tanto che eravamo convinte di averlo messo, abbiamo fatto un dibattito di un paio di giorni, ma no, l'abbiamo messo, ma no, guarda, non mi pare, l'abbiamo cercata nelle scalette, insomma, delle trasmissioni fatte, no, non l'avevamo messo, quindi... Nata a Toronto, da madre britannica, insomma è un giro tra il Canada, il Los Angeles e Londra, dove ha anche appunto registrato delle cose. Devo dire che lei è una di quelle compositrici che mi piacciono molto, spero che piaccia anche a voi, ma ha un modo di comporre queste canzoni, queste, diciamo, pezzi che sono a metà tra il, diciamo, il pop e l'alternative, molto semplici nelle composizioni, diciamo nella struttura musicale, però le liriche sono molto belle e anche proprio le melodie che ci mette su sono veramente, sono di quelle che ti che sembrano ricordi. Facili perché esatto. Te le ricordi, però in realtà non lo sono. No, si sa che le cose semplici sono le più difficili e in qualche modo sono quelle melodie che invece ti restano in testa, che magari canti sotto la doccia, che ti viene voglia di rimettere la canzone o l'album perché ti gira. E è vero, lei probabilmente questo livello di familiarità con la musica che gli... credo abbia da sempre, perché a quanto si legge, insomma, nella sua biografia, lei ha iniziato a suonare, cioè a sentire, a ascoltare la musica, a apprezzare la musica, a provare a suonarla fin da piccolissima, e questa cosa gli è rimasta. Già quando era preadolescente scriveva canzoni. Insomma, lei stessa dice: la musica è sempre stato un fattore dominante della mia vita, ma all'inizio non pensava in realtà di farci qualcosa, tanto che fino a che non ha incontrato una serie di amici, lei suonava e cantava per se stessa, cioè si scriveva le sue cose, le faceva, e pace nella famosa stanza dal bedroom da dove non usciva però. E invece poi alla fine ne è uscita, perché si è un po' trasferita a Los Angeles, dove ha registrato tra l'altro poi il suo debutto discografico, che era le Fears of Yours and Mine nel 2021. In realtà poi è andata a Londra, dove ha registrato il suo secondo EP, The Florist, nel 2022, e penso, non so se adesso è tornata a Los Angeles, questo l'ha registrato di nuovo a Londra, e adesso è uscita con, insomma, questo disco, primo disco di canzoni. È una di quelle artiste, mi è da dire, tranquille, cioè nel senso che non ha quelle cose, quelle cose, picchi, quei picchi, o neanche quelle cose che proprio non ti aspetti, che ti stravolgono musicalmente, però proprio per questo si fa ascoltare con molta dolcezza, direi. Molti video accompagnano questa uscita, perché lei appunto crede nel bisogno di esprimersi anche attraverso le arti visive, anche attraverso la danza, pur non avendo nessun background diciamo di danza. In realtà è una cosa che le piace molto, cioè c'è molta cura anche nel modo in cui racconta meglio anche attraverso le immagini le sue canzoni. Basta, abbiamo detto tutto. 19:27, ricordiamo che siamo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Salutiamo tutte e tutti quelli che ci ascoltano in DAB da Terni a Viterbo, tutti quelli che ci ascoltano in streaming dal sito www.ondarossa.info. Ciao, ciao a tutte e tutti quelli che ci ascoltano ovviamente sul caro vecchio frequenza con la radiolina. Con la radiolina soprattutto. Quarto pezzo di oggi, lei si chiama John as a Police Woman, Back Again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it other than I want. you, I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again. And I want you back again. It's always about the time, and I know this to be true. I've got to set the scene perfect for Liz, and I owe this to me and you. But I can't seem to hold out any longer, and I wonder if you try this. Oh, baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. I'm telling all myself, just singing this to you. I want you back again. Ooh, gotta be saying this. There's no other way. You just say it. I want you back again. So very uncertain, you know this to be true. I had the time to think it over and over again. I return to me and you, but I can't seem to hold out any longer. And I wonder if you try this, oh baby, just try this on. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. Don't wanna be saying this, but I'm gonna say it again, and I want you back again. I'm telling all myself, just singing this to you. I want you back again. Ooh, gotta be saying this. There's no other way. You just say it. The song is just a start. I hope that you'll slip into the melody and open up your heart for me to hold a little longer, yeah. I wonder if you try this. Oh, baby, just try this. Say it, I want you back again. Come vecchi pezzi di una volta che sfumano. Ah, quanto mi piacciono. Quelli che ti piacciono a te, così non te sbagli. Jonas and Police Woman, Back Again, uscito il 20 settembre, questo ultimo lavoro che si chiama Lemons, Limes and Orchids. Tra l'altro al basso c'è sta una che non so se avete sentito qualche volta, che si chiama Michelle Deghiocello, che suona il basso in questo album bellissimo. Dopo il bellissimo album, 2 anni fa era uscito The Solution is Restless, che l'ha vista collaborare con il compianto Tony Allen. Ecco, ritorna la nostra Joanna preferita, devo dire. Esatto. Quello no? Stavo dicendo Back Again, per fortuna. Per fortuna, un po'. Devo dire, è tornata un po' alle sonorità più sue, diciamo, antiche, si può dire, in qualche modo. Dei primi, dei, sì. perché è una roba bellissima. Ci sono anche dei video molto belli. Vabbè, lei è una musicista fantastica. Se non l'avete mai vista al vivo, andate, perché veramente è brava, brava, anche brava. Perché ha iniziato come turnista? Lei suona il violino. Lei non cantava, non cantava e non scriveva. Sì, sì, suonava il violino, suona il piano e il violino da sempre. Però appunto suonava, lavorava soprattutto come violinista, e ha suonato in un sacco di band. Ha fatto i tour, qualche so, con Wainwright, gente insomma di quel livello. Finché poi a un certo punto ho detto: ma sai che c'è? Ma perché no? Ma io posso dire le cose mie. Ma che me manca? Ah no, sicuramente niente. Ricordiamo il debutto del 2006, quindi parliamo comunque di un artista che ha già una bella carriera alle spalle, ma anche davanti, gli auguriamo. E si chiamava Real Life. Non so se ve lo ricordate, quello con la copertina, lei con i capelli ricci, di là, cioè, un disco. Ce l'ho firmato io quello. Ampedi. Poi insomma, tra album di cover ce ne sono due nella sua discografia, un live e quest'album che è uscito adesso a settembre. Diciamo che siamo nella sua produzione, contiamo circa 11 lavori, che non sono pochi. Dice che era pronta a fare un disco che finalmente che mettesse veramente in risalto la mia voce. Le basi sono state registrate come una volta. Forse questo suono anche un po' che ci sembra un po' analogico anche qui, con me che cantavo dal vivo insieme alla band. Una mia cara amica mi ha detto che questo è l'album più sexy che abbia mai fatto. Onestamente credo che abbia ragione. Quindi ascoltatevelo, diteci se pure voi lo pensate. Io sono d'accordo, cioè moltissimo, cioè questa ricerca, questa proprio di sensualità, sì, che viene fuori. E appunto, come dicevo prima, andare a vedere anche qualche video di queste registrazioni. Ce ne sono alcune in giro e sono molto belli e danno la dimensione di quello che è stato il lavoro corale e proprio, cioè, dal vivo lì, insomma, catturi il momento e diventa più bello anche riascoltare il disco. Siamo arrivate al momento che tutti aspettano, perché dobbiamo sapere come va a finire la storia. Esatto. Olivia, la sua rubrica assolutamente senza alcuna cadenza prefissata, dal titolo tutto quello che pensavi di non dover sapere invece dovevi, ma Like Wise non te lo dice, quindi te lo devo dire io, e in questo caso ce lo dice Olivia, ma potete farlo anche voi, tra l'altro. Ricordatevelo che Like Wise è aperta a contributi vari ed eventuali rispetto alle vostre passioni musicali, alle vostri innamoramenti o qualsiasi, certo, altra cosa. Sempre donne, non binary, trans, certo, questo penso qui, insomma, sarà capito un pochetto, ribadiamolo che è meglio, sì, però insomma, se avete voglia di raccontarci qualcosa in maniera un po' più approfondita di una artista che non è passata o che è passata ma a voi vi ha fatto particolarmente impressione, fatelo, mandateci un audio, scriveteci, parlatene con noi. Siamo apertissime, perché è una cosa che ci piace molto. Quindi parte questa Chapel Room, l'ascesa di una pop star queer di cui evidentemente avevamo bisogno. Draw the blinds, light every candle. Quello che lei vuole e chiede per i suoi show è uno spazio sicuro, uno spazio safe per tutte. Io e Rosy abbiamo avuto la gran fortuna di vederla dal vivo in un'arena di 12.000 persone. Personalmente io non mi sono mai sentita così bene, seppur in un posto così affollato, perché non c'erano spintoni, non c'erano dei maschi spilungoni che si prendono tutto lo spazio. La percentuale tra femmine e maschi era del 90-10%, tra persone queer e etero cis forse 99-1%. Lei vuole restituire alla comunità ciò che la comunità ha fatto per lei, e lo fa in maniera concreta, lo fa devolvendo $1 per ogni biglietto venduto a piccole associazioni trans o queer, soprattutto nel Midwest. Si circonda di gente queer nello staff, credo sia la prima volta che in un concerto ho visto anche personale di palco rodi sorridenti. Per ogni post che pubblica su Instagram tagga tutte le persone coinvolte, spesso si tratta di piccole aziende locali, non so, per gli stivali, gioielli, tutta la passamaneria che indossa nei live, i trucchi. Un esempio molto recente è la sua esibizione al festival Austin City Limits in Texas, in cui sfoggiamo un ventaglio con la scritta Trans Rights Texas, che è un altro di quegli stati con legislazione anti-trans. È un ventaglio che su Etsy costa $5, e grazie a questa esposizione la persona che li produce ha dovuto rimetterli in preordine, perché ovviamente tutti lo vogliono. Inoltre raccoglie fondi per associazioni umanitarie in Palestina, e su questo torno a breve. Getting close.

mi sembra anche un sentimento di una parte di elettorato americano, sicuramente quello che si sta spendendo sul sostegno alla Palestina, che critica fortemente anche Kamala Harris, perché comunque non si sposta assolutamente dalle posizioni che ha avuto Biden nell'ultimo anno e più. E l'altra cosa interessante è appunto questo bisogno, questa necessità, questo continuo, diciamo, separare la vita personale, quindi la persona che questo è dietro a un progetto musicale, che è appunto, Olivia citava alcune artiste che hanno vissuto drammaticamente questa impossibilità, questa difficoltà, sicuramente questo sentirsi sempre pubbliche in qualsiasi momento della vita, che è qualcosa di insostenibile per chiunque. E penso che sia un discorso complesso, articolato, ma molto importante proprio per quello che diceva Olivia stessa, cioè per la salute mentale di chi in realtà sta facendo qualcosa che le piace, ma che non deve diventare tutto quello che è la sua vita, perché ci sono anche altre cose. Esatto, e che comunque non è rappresentativa di tutta la sua persona, e questo credo riguardi ognuno di noi che ha un elemento, diciamo, preponderante agli occhi degli altri, che può essere un lavoro piuttosto che un hobby, eccetera. Se comunque identifichi la persona solo con una cosa, è chiaro che si crea un problema. Certo, là c'è tutta una, è molto più grande, perché parliamo appunto di un artista che sta vendendo milioni di dischi e eccetera eccetera eccetera, che ha milioni di ascolti. A maggior ragione l'ho trovato interessante, e credo che questo comunque sia un tema fortissimamente tenuto dalle donne in America, da Simone Biles mi viene in mente la prima, sì, che certo, ha rotto il giocattolo dalle Olimpiadi addirittura, quindi cioè la massima aspirazione di un atleta, eccetera eccetera eccetera, ogni 4 anni, bla bla bla, ha detto sì, ma io sto male, quindi sapete che sono, c'è, più importante io, sono più importante io, e vedo che ci sono molte altre che hanno questa posizione, e che l'abbia anche un artista, e che si comincia a separare questo aspetto. Non è che comunque per loro a un certo punto è chiaramente un lavoro, bello, non bello, figo, non figo, è inutile che stiamo qui a sindacare, però è un lavoro comunque, non è la loro persona, non è la loro vita, non sono i loro affetti, eccetera eccetera eccetera, e mi sembra giusto anche mettere una serie di limiti in un momento storico in cui di limiti non ce n'è da nessuna parte, per via dei social eccetera, dove tutto quello che è privato è pubblico, quello che è pubblico è privato, quindi non si capisce più niente. Che qualcuno dica aspettate un attimo, questa è la mia vita lavorativa, poi c'è la mia vita personale, e là francamente non bevo io. E al grido di mollatemi, ringraziamo ancora Olivia per questa, diciamo, seconda puntata, questo intervento diviso in due parti. Poi vediamo, magari lo mettiamo tutto insieme. Stiamo ancora aspettando che un po' Archive si riprenda del tutto. Ora proviamo a sistemare tutti i link e tutto quanto. Magari lo mettiamo insieme al podcast nelle nostre, poi sul sito della radio. Prossimo pezzo. Prossimo pezzo è un bellissimo ritorno. Aspettiamo con ardore l'album Green Tin Peng, TARDIS. There are no insecure monsters, no successful half-hearters. Those willing to take on a task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless, we set in sights regardless. Small timers but our chests come big like TARDIS. We move not backwards, only forward. From West Ham to Norwich, we channeling, we at the altars, not the afters. We mash up regardless. Why are you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promised. I do this shit, I do it honest. I do this shit, I do it honest. From West Ham to Norwich, we channeling, we at the altars. Yeah. West Ham to Norwich, we channeling, we at the altars. Not the afters, we mash up regardless. Why you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promised. I do this shit, I do it honest. I do this shit, I do it honest. Give thanks, yeah. I'm shaking through my pen and into page. I think I found a way to shape my rage that you could never take away from me. No biting sounds or imitate. Nah, nah, nah, nah, nah. We dropping bombs, it's a calamity. This shit is vital for my sanity. Release your vanity, the microphone and me. My boys, my family, honey, wine and green. Peace, love, unity, we can all live beautifully. Babylon, let us be, for the here, for the now. Let the spirit run wild, let the spirit run wild. From energy, this here's the synergy. Like my mark in symmetry, this life it mirrors me. This is my reality, my mad faculties. Don't need no strategies when it comes to my needs. Pure expressions, we leaving heavy impressions. We ain't trying for no perfection. Nah, there are no insecure mind styles. No successful half-hearted. Those willing to take on the task require life. Dream the gentle from the heartlands. No time for the heartless. No, no, no. There are no insecure monsters. No successful half-hearted. Those who are willing to take on the task require life for the inevitable darkness. We move in silence. Conjuring the gentle from the hardness. For the heartless, we set in sights regardless. We set in sights regardless. I do this shit to do it honest. I do this shit to do it honest. There are no insecure monsters. No successful half-hearters. Those willing to take on a task require light for the inevitable darkness. We move in silence, conjuring the gentle from the hardness. No time for the heartless. No. Tardis Artist, nuovo singolo, è uscito una decina di giorni fa, che preannuncia un album ancora appunto in costruzione. La prima cosa che esce nuova da due anni a questa parte, si rimette assieme alle persone con cui fondamentalmente ha lavorato per tanto tempo, i Buzz, Samu e St. Francis Hotel, e cura anche insieme Above Ground il video che accompagna questa uscita. Quindi insomma c'è tanto, andare a vedere il video, ascoltare questo pezzo a palletta, il suo flow è fantastico, le liriche meravigliose, a noi ci piace un sacco, quindi recuperate la puntata di Likewise dove abbiamo presentato Green Zone 108, che era il suo album precedente, e la ritroveremo probabilmente nel nuovo anno. De corsa perché sono le 19:56, anche se non te cose ci tancano, non si vede però. Drinda Lindas, No Obligation. Me better. yourself to warm. They try to tell you just where you belong. We don't. No Obligation, tratto dal nuovo album che si chiama appunto No Obligation, uscito l'11 ottobre scorso. Bene, nonostante l'entusiastica accoglienza di questo album, a noi non è piaciuto tantissimo, diciamolo, a parte tre pezzi. Però le vogliamo comunque, li vogliamo molto bene, perché pensate che loro non hanno neanche finito le superiori, perché praticamente, cioè stanno la batterista ha fatto 14 anni. Sono stra giovani, hanno passato tutta l'estate a suonare, ad aprire per gruppi abbastanza grandi, tipo i Green Day, Bikini Kill, i Rolling Stone, quindi si sono fatte le ossa sul palco e penso che si siano divertite molto, quindi restiamo in attesa, diciamo un disco interlocutorio, dai. Interlocutorio, no? Speriamo appunto, come dicevi tu, che non ci siano produzioni che spingano troppo dove non ci piace che vadano le nostre Linda Lindas. Ultimo pezzo della serata, lei si chiama Mabe Fratti Kravitz. Sí. Ma Befratti è la musicista, voce e compositrice di questo pezzo che avete ascoltato e dell'album nel quale è contenuto. Il pezzo si chiamava Kravitz e l'album si intitola Sentir que no, che non sabes, giusto? Sì. Lei del Guatemala, 32enne violoncellista, che si è fatta notare negli scorsi 3-4 anni, in particolare qualcuna avrà già ascoltato delle cose, visto che ha anche aperto delle date, della nostra amatissima Daniela Pes. Spazia molto nella sua musica. Noi abbiamo scelto di quest'album forse il pezzo più groovy, insomma, in qualche modo. Ha un bel modo interessante di suonare il violoncello e di proporre il suono del violoncello. Sentite anche sotto nel secondo pezzo che abbiamo scelto. Lei dice di se stessa: io non sono una virtuosa, quindi in qualche modo cerco di suonare il violoncello nel modo più grezzo, più, no, più anche istintivo, più sporco. Questa è la parola che utilizza possibile. Ed è una cosa molto attraente. Sì, poi comunque c'è anche un recupero della tradizione, se infatti sentite tutto il disco c'è molto Guatemala, cioè c'è tanta musica in qualche modo che appartiene alle tradizioni popolari, della musica popolare, e tutto appunto con questo sapiente equilibrio tra tradizione, innovazione, suoni analogici, suoni elettronici, un lavoro molto, molto bello da ascoltare. Like quasi finisce qua. Noi ce ne dobbiamo andare. Ce ne dobbiamo andare. Ce ne dobbiamo andare perché dall'altra parte sono arrivati Note, Cose e Città. Sono le 20:06, siamo già anche un po' in ritardo, abbiamo già abbastanza sforato, come al solito. Vi porteranno nel 1994 loro. Noi ci porteremo a casa, però vi aspettiamo martedì prossimo sempre qui su Radio Onda Rossa. Vi lasciamo quindi in buona compagnia, ascoltate la radio, poi ci sarà dopo Note, Cose e Città, c'è Semilla, Musica dal Mondo, poi c'è Morfire, quindi restate con noi, restate con Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Ciao. We jump when they say crisscross your legs, calling karma a bitch cause she made you beg. I'm just traveling, rolling, growing. I looked at the mirror, caught the driver drooling. Damn, wait a minute, what the hell you doing? I got booty, but this ride ain't amusement. End of the date, now it's time for the bill. Pockets full of cash and looks that kill. Girl, I'm sure you split that shit. Wait, did the waiter just ask him my pin? Okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing, I say okay. I'm doing okay, doing okay. I'm doing okay, doing okay. With my girlfriends, it's a new day. Ask me how I'm doing.